It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce del giorno non riesce mai a penetrare, Kappa e Drago riaffrontano il tema episcopale. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Sì, però il fatto è che io non riesco a pensare a una gallina in termini erotici, Drago. È inutile che insisti, è più forte di me, non ce la faccio, lascia perdere. Infatti io non dico mica che bisogna essere episcopale con le galline. No, io dico solo che l'evidenza dei fatti è che siamo in mezzo ai polli e che i polli si dividono in maschi e femmine, no? Come tutti gli animali, tutti i vegetali. Vabbè, ma cosa c'entrano i vegetali adesso? Anche loro si dividono in maschi e femmine. Comunque dicevo che qui polli ci sono, polli maschi e polli femmine, detti anche galline. E quindi? No, e quindi niente, cioè. Ma cosa niente, cioè? Perché inizi un ragionamento e poi lo lasci a metà? Mi fa impazzire sta roba, calma, mi fa venire il sangue agli occhi. No, io aspetto che sia tu a trarre le conclusioni, le ovvie conclusioni. E che ovvie conclusioni dovrei trarre adesso? Che c'è poco altro da fare. Cioè? Polli maschi o polli galline? Ma no. Vorrei riprendere il discorso episcopale. Allora, io dico solo una cosa. Se ho la paroxetina, non ho interessi episcopali. Cioè, diciamo che la paroxetina mi basta. È l'inibizione selettiva della ricaptazione della serotonina. Funziona così bene che non mi serve altro. È come se ci fosse del nettare di vino chiuso in una botola del cervello. E con la paroxetina la botola si apre e il nettare di vino si spalge dappertutto. E io sto bene. Bene, via, insomma. Diciamo che non vado in sbattimento. Perché io, bene bene, non mi ricordo di essere mai stato. Qua dentro in 25.000, tutti stretti, sempre qualcuno che ti guarda, che ti osserva. Ehi, per chi è il Tarek? Tarek? Ma tu sei sempre a fare balle. Cosa vuoi? Cosa stai cercando? Sei tutto agitato, ma perché? Mi metti l'ansia? Cosa c'è? Ti delire. Ancora? Ma svegliati, Guarda che ti sveglio io, Ti do una roncolata. Ecco, hai quasi pari. Sì, perché qui devo fare così, E meno male che prendo la paroxetina. Perché sennò invece del roncolate gli dà una beccata per occhio e poi me li mangiavo come lombrichi gli occhi, Episcopale, ma chi ci pensa più? Se venisse a mancare la paroxetina, forse, allora magari episcopale sarebbe un buon riempitivo. Ma finché dura, niente episcopale. E poi le galline si montano la testa e pretendono delle prestazioni come se fossi innamorato di loro. Invece io non provo niente, Io sono attutito. Non posso provare emozioni, sono attutito, Perché poi... e poi non c'è affetto. It is later than you think. Questa storia della scorta rischia di essere la fine della mia carriera di poliziotto. specialmente il turno da mezzanotte alle 6. È un pazzo, è un delinquente il signor ministro. E noi a scortarlo, a proteggerlo, ma più che altro da se stesso. Non che voglia fare l'eroe, però ha un senso smettere di fare lo sbirro perché salti in aria o per una sparatoria. È bello, no? Come nei film. Il cecchino prende la mira dal tetto di un palazzo, io faccio scudo col corpo, mi sacrifico per la vita di uno zozzone in doppio petto. Questo sì ha un senso. Invece non ha nessun senso finire contro un platano perché guida Sua Eccellenza l'onorevole drogato. Questo no. Non ha nessun senso essere cacciati dal corpo perché lo è sorpreso nel cesso del ministero con due travestiti. Oh, urlava come un pazzo. Credevo avessi un infarto, ho buttato giù la porta. A saperlo prima cosa... O meglio, chi si stava facendo? Restavo al mio posto a mandare messaggini alla fidanzata con le dita infilate nel naso. Ma quella volta che è diventato pazzo perché mi rifiutavo di andargli a comprare la coca. Già mi dà fastidio dover coprire le dozzine di reati che commette ogni giorno, ma diventare anche complice, quello no, dai. Se devo trafficare sostanze, voglio più soldi. Ecco, il prossimo che mi parla della riservatezza, della severità del potere, guarda, lo porto in giro con questo Jim Morrison da Montecitorio e gli faccio vedere io come girano le cose nel cuore della politica. Ma non è mica il primo che trovo così, no. I calciatori, attori, cantanti, niente in confronto, niente. Perché i potenti, quelli veri, hanno l'unica certezza che protegge da ogni eccesso, la certezza dell'impunità. Per questo, guarda, signor ministro, se proprio le va di cacciarmi perché ho visto troppo, perché ho fatto troppo poco, la prego, almeno mi lasci tra le mani, al posto del distintivo, la 24 ore del portaborse. Eh? Così sì che dare la vita per lei avrebbe un senso. In the middle of nowhere. La fabbrica di polli. Il mercenario, sì, da quando il colonnello Unghiute ha saputo della morte del suo sciamano, non si è più fatto vedere, i volontari lo invocano. Senti qua che roba. Il problema è che senza lo sciamano le trattative tra il colonnello e l'amministratore delegato non possono più andare avanti. Chiamo l'amministratore per chiedere che cosa ha intenzione di fare, perché qui le cose stanno veramente sfuggendo di mano. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Che stranezza, il numero dell'amministratore delegato è inesistente. La cosa mi puzza. Beh, puzza qui, sempre. Tanto qui però il panorama, hai notato che da quando è arrivato Unghiute è un po' cambiato, è diverso, c'è più spazio vitale. Sì, lo spazio vitale ha massacrato una media di 30 polli al minuto da ormai... quanto tempo? Non lo so, ormai ho perso la nozione del tempo, tanto tempo fa, talmente tanto tempo, che non saprei dirti da quanto. Chissà la roba che ho lasciato in frigo. Chissà la mia macchina piuttosto, la roba del frigo. Chissà gli appuntamenti di lavoro. Chissà le persone che conosco. Chissà mia mamma. Mimmi. Sì, figliolo. Mimmi, ma che voce hai? La mia voce, figliolo. Nì. Sì, figliolo. Nì. Sì. Nì. Sì. Nì. Sì. Nì. Nì. Sì, sì. Nì. Nì. Nì. Lasciami. Nì. Sì. No, ma tu non sei. Tu non sei la mia Mimmi. Sì, lo sono. Nì. Mimmi. Nì. Sei più sveglio di quello che credevo, capretto. Nì. Nì. Nì. Lo sai perché? Nì. Perché io non sono la tua mamma. Nì. Io sono... Chi sei? Canaul! E adesso ti... Che cosa succederà adesso? Il capretto si salverà dall'orco cattivo Canaul che si spaccia per la sua mamma? Abbiate la bontà di pazientare fino a domani, quando a mezzanotte su Radio 3 verrà diffuso sul suolo nazionale il prossimo dirompente allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. This pilgrim is on the air, every night at the same hour. Good night, ladies and gentlemen, good night.